tutti i carcerati depilati, per tutti gli scienziati illuminati, per i poeti malandati, per gli afflitti drogati di buchi, per i popoli soffocati, per gli insulti ricevuti, per chi mangia in abbondanza, senza curarsi di chi è senza, per chi naviga in acque sporche, per chi affoga nella morte, per coloro che sono già partiti, troppo presto dal mondo rapiti, per le anime che cercano luce, la luce, per le anime che cercano pace, la pace, per chi soffre nella solitudine, solitudine. In questa terra non ha più voce, più voce. Per i giornalisti feroci, feroci, che quando parlano spengono luci, le luci. Per tutti quelli che hanno voglia, ma che poi restano nella loro paglia, perché è una scusa sempre da darti, per non cambiare, per non ferirti, per chi lotta e ancora crede che sia possibile un mondo migliore. Misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia. Per chi crede che la religione sia l'oppio dei popoli, per chi crede nella processione e si inginocchia davanti al portone, per chi prega solo la domenica e gli altri giorni mangia solo codica, per chi piange sulla propria sorte e con una mano ruba nelle due tasche, per coloro che hanno sete di giustizia, che aspettano giorni migliori, per coloro che hanno fame e solo una vita per morire, per i preti allontanati dalla chiesa, per Don Milani, Don Gallo e quella schiera di angeli che in ogni tempo stanno dalla parte offesa, per tutti quegli scatenati che ancora credono alla rivoluzione perché hanno il cuore puro, perché hanno il cuore intero. Per gli amici della rete, che siamo tutti nella stessa luce, per le carogne che sputano rospi, per l'eremita che non mangia pasti, per i fratelli e le sorelle del mondo, che fanno di tutto per spezzare l'inganno, per chi riesce a salvare se stesso, ma piange di rotto per la sofferenza dell'altro, per i fratelli e le sorelle del mondo, che fanno di tutto per spezzare l'inganno, perché riesce a salvare se stesso, ma piange a dirotto per la sofferenza dell'altro. Misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia, misericordia.